Ecco, tu hai appena diramato un comunicato in cui dici che è stato ammazzato un polmone sociale della città. Sì, io mi auguro che non sia stato ammazzato, ma che sarà tempo nelle prossime settimane e mesi di recuperarlo, insomma, però di recuperarlo fino in fondo, non di recuperarne dei surrogati. Il dato di fatto è che l'operazione di questa mattina, che io, come ho scritto, e non ho nessun problema a ripeterlo, trovo di una stupidità straordinaria, si è data, diciamo, una botta a quella che secondo me rimane la parte migliore di Bologna, cioè quella che è ancora in grado di innovare, di proporre qualcosa di nuovo, di creare forme di solidarietà. Si è voluta chiudere, cioè questo è un dato di fatto nel peggiore dei modi. Ecco, tu da tempo sei vicino, insomma, agli attivisti di Labà. Che cosa ti ha colpito di più del loro progetto? Ma il fatto che, secondo me, anche rispetto, diciamo, alle articolazioni, l'esperienza di centri sociali hanno avuto in Italia, mi è sempre sembrata quella più contemporanea, cioè quella che era stata più in grado di sviluppare percorso innovativo di legame con il territorio, di apertura di progetti sociali, insomma, che andavano anche al di là di quelli sperimentati tradizionalmente. La questione del rapporto che hanno costruito con Campi Aperti è stata, diciamo, sotto certi aspetti un laboratorio che poi si è spinto anche oltre, però anche proprio la relazione forte con il quartiere, che si è sempre sentita, credo sia la parte più importante, cioè non volersi mai costruire o percepire come un corpo politico separato, ma sempre come un aggregato, insomma, che provava a relazionarsi fino in fondo con la realtà. E questo credo che anche Bologna l'avesse sempre riconosciuto. E a questo punto a me sembra che sia, come dire, le istituzioni che sotto certi aspetti si pongono come corpo separato rispetto alla città. Ecco, ma tu vedi in questo, come dire, una chiara volontà dell'amministrazione comunale, o, come dire, la situazione di Bologna risente di un clima nazionale che, ricordiamoci, nell'epoca Minniti colpisce la povertà più che fare lotta alla povertà? Guarda, a me l'amministrazione di Bologna sembra, non solo in questo caso, totalmente in balia degli eventi, spesso, perché è quasi peggio che esserne responsabili, perché un clima nazionale c'è, si vede in tutti i campi, dal neofascismo che mette fuori la testa indisturbato, al fatto che c'è, diciamo, una strategia, comunque un intervento di normalizzazione di qualsiasi cosa, di colpevolizzazione della solidarietà. Insomma, questo è il quadro nazionale, in cui è chiaro, no, che ci si sente sempre evidentemente legittimati a cancellare qualunque esperienza non stia all'interno di questo quadro. Il punto però è che ci si dovrebbe sempre aspettare dalle istituzioni cittadine, insomma, dalla politica locale, in Emilia Romagna storicamente, insomma, una qualche capacità di andare oltre, diciamo, quelle che erano anche alcuni momenti non belli della politica nazionale, ci sono stati, mentre qui si vede la quiescenza se non la complicità, e questo forse è un dato che dovrebbe far riflettere molto. Ecco, si registrano sui social network alcune reazioni anche di esponenti del Partito Democratico Cittadino dispiaciute di questo evento, e dall'altro anche alcuni delfini, diciamo, tipo Davide Di Noi, che fa appello sempre al concetto di legalità. Ricordiamo che Labà occupava un posto che era vuoto da anni, ma come dire, si riuscirà a uscire da questa retorica della legalità? Io me lo auguro, io personalmente non ci sono mai entrato, trovo che la legalità, diciamo, declinata in questo modo, in qualche modo ne cancelli anche persino il valore della parola, che pure evidentemente molto importante, cioè rispetto ad alcune questioni viviamo in un perenne stato di eccezione, quindi fuori completamente dalla legalità, no? Cioè, se pensi adesso, pensiamo a quello che sta succedendo nel Mar Mediterraneo, in cui il concetto anche di legalità internazionale in qualche modo viene violato, deformato, eccetera, eccetera. Mentre invece su questioni come queste si usa impropriamente poi la parola legalità, perché legalità cosa significa? Cioè, rispetto al fatto che c'era un bene che era un bene pubblico storico, cioè una caserma, e il fatto che venga rimpallato di proprietà in proprietà sempre esclusivamente con la volontà di fare dei saldi, di far risultare dei saldi di bilancio che altrimenti non starebbero in piedi, per cui il comune, lo Stato, la CDP si rimbalzano questo bene poi mettendo diciamo numeri nel loro bilancio per farli tornare. E il problema rispetto a tutto questo, ad un bene che evidentemente ad oggi a me risulta non abbia alcun tipo di prospettiva futura, progetto e quant'altro, il problema è che dei cittadini si reimpadroniscono e restituiscano alla città quello che era un bene che alla città apparteneva, alla storia, peraltro la città anche alle pagine più brutte della storia cittadina, se non sappiamo molto indietro con la memoria, quindi restituendogli invece un significato positivo. Cioè, questa è la legalità costituzionale, secondo me è innegabile questa cosa. Cioè, l'intervento dal basso, la riappropriazione di spazi e la restituzione della città è una cosa positiva. D'altronde sui beni demaniali, su quelli che vogliono loro, non si fa tutti i giorni, cioè non c'è la fila del demanio a chiedere a chiunque di prendersi una qualche stazione abbandonata per farne non si sa bene che cosa. Dove invece le cose vengono fatte, vi vengono sgomberate, perché quei beni sono, solo per il fatto che stanno dentro i centri storici, hanno un valore che può essere scritto virtualmente a bilancio. Cioè, questa è la verità, non è un'altra. Quindi, parliamo delle cose serie, non della legalità astratta.